Pablo Hassel è stato un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché come sapete è ormai da anni che soprattutto in Catalogna, ma in genere in tutto lo Stato spagnolo, c'è un problema grave di rapporto con l'istituzione statale e con il potere costituito, no? Va detto che in questo momento c'è un altro problema che sta emergendo e che sono i limiti che erano evidenti per la gente che si oppone all'opposizione qui da sempre, dalla transizione ad oggi, di una democrazia che è nata da un franchismo che non si è mai sciolto del tutto. Si parla sempre di continuità, di regime del 78, la transizione che è stata spacciata per anni in Italia e altrove come una transizione modello da una dittatura a una democrazia, in realtà è stato un processo di continuità, di trasformazione, ma non in democrazia, di adattamento di un regime fascista al contesto, diciamo, europeo più moderno. Questo per spiegare un po' la situazione sulla libertà di espressione. A volte si dice qui, da parte dei settori favorevoli al potere, che questi reati d'opinione esistono un po' dappertutto, che esiste il reato di ingiurie o vilipendio alla bandiera, al Presidente della Repubblica, eccetera, in altri contesti. Però qui si applicano in modo assolutamente diverso e sproporzionato. Una cosa che diceva e che disse Pablo Hassel quando venne processato, e non è un caso che il suo processo avvenne nell'unico tribunale speciale che ancora esiste in tutta Europa, erede appunto di un regime dittatoriale che è l'Audienza Nazionale, erede del Tribunale di Ordine Pubblico. È un tribunale speciale in cui soprattutto vengono esaminati processi di tipo politico, sia d'opinione, terrorismo o quant'altro. Bene, lui disse in quell'occasione, diciamo, vediamo se è colpa mia che il nostro re sia un ladro, un puttaniere e vada a ammazzare animali esotici in giro per il mondo, spende i nostri soldi così. Io semplicemente l'ho detto. Il perché di una risposta così diffusa e così forte? Sapete che ormai qui è da una settimana. In Catalogna sono state fatte manifestazioni in più di 90 cittadine. Queste manifestazioni, molte, si sono risolte con scontri, arresti. Solo a Barcellona ci sono stati 108 arresti in questi giorni. Ce n'è stato uno ieri che sarà particolarmente significativo perché provocherà un'altra ondata di manifestazioni e proteste, perché è stato arrestato un compagno molto conosciuto negli ambienti dei movimenti di un quartiere popolare qui di Barcellona, che è Sanz, ed è stato mandato in galera con l'argomento che così si evitavano ulteriori manifestazioni di protesta. Il caso dell'Hassel è stato applicato proprio il codice penale, che prevede questi reati di ingiuria alla corona, ingiuria alle forze armate, eccetera eccetera, reati che vengono poi interpretati ulteriormente da una giudicatura che è assolutamente una cultura post-franchista smaccata e che comunque esistono, no? La legge Bavaglio è una legge, diciamo, che quello che fa è reprimere le manifestazioni che non costituiscono reato punibile penalmente a livello amministrativo, cioè a suon di multe, semplicemente per gente che era in piazza. 600 euro sono il minimo. Questa è la legge Bavaglio ed è una legge pensata appositamente per tutte le manifestazioni che non possono essere considerate reato, che manifestare è un diritto fondamentale in una democrazia e formalmente la Spagna è una democrazia, però così riescono a reprimere, no? Nel caso dell'applicazione di reati d'opinione, come quello applicato al Pablo, si tratta di reati che spesso esistono anche in altre legislazioni. Qui la differenza è chi colpisce e come colpisce, no? Con che accanimento, con che continuità e soprattutto a che settori. Evidentemente sempre settori di dissidenza, cioè non è mai stato processato nessuno di destra o banchiere per aver detto una barzelletta sul re. L'altra cosa, che è una peculiarità spagnola, è l'elevato numero e la pesantezza delle condanne. Adesso ci sono 14 rapper che sono in attesa di incarcerazione perché hanno delle condanne per aver cantato cose contro il re, contro la monarchia, contro l'esercito, eccetera eccetera. Un'altra cosa della specificità spagnola: c'è il ruolo che viene dato sia alla monarchia, l'importanza dell'unità della Spagna, perché tutto questo viene fatto in nome della irrompibile Spagna, della unità della patria, e il ruolo appunto dell'esercito e delle forze armate. Anche qui la replica normalmente di quelli che vogliono normalizzare questa situazione è il dire che in tutte le legislazioni del contesto europeo democratico ci sono norme simili. Bene, insomma, tutte queste anomalie rientrano in una cultura che è una cultura, come dicevo, di uno Stato che non ha mai fatto i conti con il franchismo. Pensate che non c'è una sola norma nella Costituzione in cui si dica che la Spagna non è più un regime franchista, in cui si neghi, diciamo, la continuità.